24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 18 minuti e 39 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella, eccoci. Buongiorno, buongiorno e grazie a Nicola che ci fa gli auguri per San Valentino. San Valentino, grazie. Sì, oggi 14 febbraio, per chi non lo sapesse. Se ve lo siete scordato, se fate una cosa carina. Se non vi fossero arrivati tutti i messaggini, le pubblicità che vi dicono di comprare le cose per il vostro non compagno, comprate, la magari, vostra compagna. Ma mandategli un messaggio. Basta un messaggio, così triste. Come Nicola ha fatto con noi, strappandoci un sorriso. 349-238-6666, gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, l'800-24-00-24 per intervenire in diretta. Matteo Salvini, leader della Lega, buongiorno. Buongiorno a voi, buon viaggio. Verso dove? A quelli che stanno viaggiando. Io ascolto in macchina o in treno, quindi ci saranno altri che ascolteranno in macchina o in treno. Oggi sono milanese, ieri abbiamo fatto una bellissima serata con più di 1000 persone a Torino parlando di industria, di commercio, di sviluppo, di TAV, di Olimpiadi, di automobili, di crisi aziendali. Sentivo il vostro giornale radio. L'Italia ultima per crescita in Europa, 5.000 cassa integrazioni con Adoshan. Salvini, mi scusi, non avrà una cosa tecnica, non avrà mica la radio accesa? Assolutamente no. Sento uno strano eco. Comunque lei a Torino ha fatto un quadro della situazione che è poi quello che ci viene riferito anche dai dati Istat e dai dati sulle produzioni industriali. E tuttavia il problema è che questo paese è fermo anche perché i politici, invece di affrontare dei temi di interesse collettivo, si fanno delle guerriglie. Qualcuno ha notato, Salvini, che nelle ultime settimane la Lega è rimasta silente, mentre ha lasciato a Italia Viva di Renzi il compito di fare opposizione. Ieri i renziani hanno votato per due volte, appunto, con le opposizioni, con la Lega, con Forza Italia, hanno votato insieme a voi contro la revoca delle concessioni autostradali. Ovviamente ne abbiamo parlato prima, le ministre renziane hanno disertato il Consiglio dei Ministri in polemica con la riforma della giustizia. Insomma, le chiedo, mentre voi vi preparate a fare l'ingresso in società davvero in Europa, si veda anche l'intervista di Giorgetti questa mattina al Corriere della Sera, avete delegato a Matteo Renzi il compito di fare opposizione, è il vostro migliore alleato? No, guardi, noi ci stiamo occupando di problemi reali, noi ci stiamo occupando di cantieri in maniera vera. Il cantiere più grande in questo momento in lavorazione è la Pedemontana Veneto, grazie alla testardaggine della Lega di Luca Zaia e alle imprese private e ai fondi dei privati. Ci stiamo occupando delle infrastrutture che serviranno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che porteranno 5 miliardi di euro di investimenti in Italia. Anche questo è ottenuto contro i no dei 5 Stelle grazie alla testardaggine della Lega. Ci stiamo occupando in piccolo, però penso che interessi a tanti, non è sui giornali, ma è una legge che abbiamo voluto noi, quella delle telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo, per tutelare bimbi disabili e anziani, che è ferma da 5 mesi in commissione, da 5 mesi in quinta commissione al Senato. Quindi ci stiamo occupando di piccoli grandi temi veri, anche perché è un mese, l'ho sentito anche la vostra giornale radio, che in maggioranza PD, 5 Stelle e Italia Viva si scannano sulla giustizia e sulla prescrizione. Ora, quando io dopo l'intervista uscirò e incontrerò gente per strada a Milano, mi parlerà di lavoro, mi parlerà a Roma, mi parlano delle metropolitane ferme, del piano rifiuti che non c'è. Quindi noi non è che stiamo zitti, una volta che sulla giustizia hai detto la tua, non è che ogni giorno possiamo inseguire Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, Bonafede che si insultano e si picchiano. Adesso gli ascoltatori avranno capito perché quest'estate la Lega ha rinunciato a 7 ministeri dicendo così non si può andare avanti a lavorare. Ecco, le elezioni continuano a essere la via maestra. Elezioni che a questo punto lei vede più vicine, Salvini? Ma non lo so, guardi, lo chieda a chi è al comando. I signori importanti in questo momento sono Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, Bonafede, chiedete a loro. Noi stiamo portando in aula delle proposte anche al decreto mille proroghe. Ci sono per le imprese, per i commercianti, per i liberi professionisti altri adempimenti burocratici, altra burocrazia, altre complicazioni. Noi stiamo facendo queste battaglie in Parlamento che magari non finiscono sui giornali, però entrano nelle aziende, entrano nei negozi. Ogni tanto qualcuna la vinciamo, ogni tanto qualcuna la perdiamo, però preferisco non fare opposizione urlando tutti i giorni, ma provando a costruire qualcosa. Senta Salvini, lei ha fatto una conferenza stampa di fronte ai giornalisti della stampa estera nella quale ha voluto chiarire una volta per tutte che non siete in nessun modo intenzionati a uscire dall'euro, cose ribadite anche nell'intervista al Corriere della Sera da Giorgetti oggi, Giorgetti che è il nuovo responsabile esteri della Lega. Questo significa che vi state preparando, vi potreste essere disponibili a un governo cosiddetto istituzionale? Lasciamo perdere Mario Draghi, che viene sempre chiamato in causa e che non so se sia proprio così disponibile per guidare un governo in questo momento, ma lei, Salvini, darebbe il suo ok a un governo istituzionale che vada appunto dalla Lega al Partito Democratico? Giorgia Meloni ha già detto che non ci sta e quindi la escludiamo, ma lei invece ci starebbe? Scherza. Come ha detto? Le chiedo se sta scherzando. Se io faccio il governo col PD, per fare cosa, mi scusi? Perché ci sono appunto tutti questi gravissimi problemi reali nel paese, scusi, e qualcuno pensa a un governo istituzionale per risolverli. No, ma mi perdoni, se siamo persone serie. Il PD vuole cancellare i decreti di sicurezza, vuole cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, vuole cancellare la flat tax che abbiamo messo lì per partite IVA commercianti, vuole fare l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto voi. Cosa faccio? Allora faccio se non ci stesse il PD e ci stesse un pezzo di Movimento 5 Stelle, magari col suo ex amico Di Maio, mettiamola così, è un'ipotesi. Scusi, che corre. Siamo andati a casa perché questi bloccavano tutto, bloccavano la TAV, bloccavano la TAP, porti, aeroporti, strade, autostrade, IVA, l'Italia, Olimpiadi. Cosa sono? Uno che fa cambia idea una volta ogni 6 mesi. Siamo seri, la via sono le elezioni, punto. Punto. Nessun governo istituzionale con Italia Viva. Sì, anche se Salvini, tutta una serie di scadenze istituzionali ci fanno dire che non è detto esattamente che sia così. Però rimaniamo un po' sui temi concreti e lo facciamo con un ascoltatore. Ci ha mandato un messaggio tra i tanti che ci stanno mandando. Mandateceli e chiamate l'800240024. Via. Approfittiamo della presenza di Salvini per chiedergli quanti del reddito di cittadinanza hanno ricevuto un'offerta di lavoro. E soprattutto quanti posti si sono liberati dalla quota 100? Essendo lui all'opposizione, forse ci dirà la verità. Insomma, Salvini, no? Allora, da una parte il reddito di cittadinanza, e comunque l'avete approvato anche voi in questo scambio col Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte, quota 100, sulla quale avete un po' raccontato questa storia secondo la quale si sarebbero liberati chissà quanti posti di lavoro per i giovani, e in realtà i dati ci dimostrano il contrario. Lei che dati ha, mi scusi? Eh? Lei che dati ha? Lei di che dati sta parlando che dimostrano il contrario? I dati di sostituzione tra lavoratori che sono usciti con quota 100. Certo. E lei che dati ha? Gli ultimi dati che ho visto, i più recenti, mi pare che siano di settembre, una cosa di questo genere. Il tasso di sostituzione è 10 uscite, 10 uscite, 10 uscite ogni e 3 entrate. Quindi lei che dati ha, Salvini? Mi dica che dati ha? Mi dica lei che dati ha, allora. Ma le ho fatto una domanda per dare la risposta. Non per parlare di calcio o di Milan. Mi dica. Sono più di 300.000 persone, sì, a febbraio, non a settembre, quelle che hanno scelto di optare per quota 100, sì, liberandosi dalla gabbia della legge Fornero. 70.000 nel pubblico impiego è entrato in vigore a far data da gennaio, e ci sono 100.000 nuovi ingressi. E quindi nel pubblico impiego c'è uno ogni tre. Per il momento sì, ecco. Quindi ci sono 300.000 italiani che hanno recuperato anni di vita e di speranza, e uno l'ho incontrato ieri, 66 anni, invalido all'80%. Mi scusi Salvini, mi fa una cortesia, mi ricorda quanti avevate detto che sarebbe, su quanto avevate detto che si sarebbe attestata la sostituzione? Di entrata in vigore della norma faremo i conti su quanti sono entrati al posto di quelli che sono usciti. Ad oggi abbiamo un risultato per me clamoroso, clamoroso, di 300.000 italiani liberati da una gabbia che era stata costruita loro intorno e di almeno, lo sottostimo, altri 100.000, soprattutto giovani, che hanno cominciato a lavorare, altrimenti sarebbero alla finestra ad aspettare che accada qualcosa. La fonte, Salvini? Che guardate i dati del Ministero del Lavoro, io sono all'opposizione, chiedete i dati al Ministero del Lavoro, siete Radio 24, vi occupate di economia, non avete bisogno di sapere. Lo faremo senz'altro, Salvini. Io intanto però le voglio chiedere, se lei tornasse al governo di quota 100 e di reddito di cittadinanza, che cosa farebbe? Li manterrebbe tutti e due? Quota 100 assolutamente sì, e l'obiettivo finale è quota 41. Reddito di cittadinanza, vediamo, a un anno dall'entrata in vigore, si sta dimostrando, per i dati che abbiamo, assolutamente fallimentare. Una pausa Maria, poi torniamo con Salvini. Mattino. Eccoci di nuovo, vai Maria. Eccoci, allora, a proposito di cambiare idea o non cambiare idea, Salvini, quando eravate al governo avete votato la riforma Bonafede sulla giustizia, invece adesso siete molto ostili, tant'è vero, come ricordavo prima, che vi trovate sulle stesse posizioni voi, Forza Italia, Italia Viva. Ora, un giurista, cito Gianluigi Pellegrino, che ne ha parlato su Repubblica, osserva che lo stop alla prescrizione per chi è giudicato colpevole in entrambi i gradi di merito potrebbe essere una soluzione di buon senso. Perché non vi va bene nemmeno questa? Senza andare a rivedere proprio i tempi in cui la Lega sventolava i cappi a Montecitorio, tuttavia insomma la posizione della Lega tradizionalmente è sempre stata quella piuttosto seria, no? Sulle responsabilità giudiziarie. Come mai avete fatto questo cambiamento di posizione? No, guardi, noi abbiamo sospeso l'entrata in vigore della riforma della prescrizione perché il ministro Bonafede si era impegnato a riformare il processo penale e quindi prima riformi l'intero processo, poi intervieni sui tempi di prescrizione e di avanzamento o stop dei procedimenti. Se non sai quando comincia e quando finisce un processo, se non c'è una responsabilità civile per chi sbaglia, se non ci sono tempi certi, non c'è l'informatizzazione, non ci sono le assunzioni nei tribunali dei cancellieri, uno non può stare sotto processo tutta la vita. E quindi l'avevamo sospesa, la riforma del processo penale poi è scomparsa, non si hanno più notizie di questa iniziativa da parte di Conte e Bonafede, e quindi è chiaro che se gli avvocati di tutta Italia protestano, o sono matti gli avvocati di tutta Italia, oppure far entrare in vigore solo questo pezzettino di riforma impaserebbe, bloccherebbe tutto quanto. Quindi la nostra posizione è esattamente quella dell'anno scorso e di due anni fa. Beh, veramente loro sostengono, dico la maggioranza senza Italia Viva sostiene che proprio questo è il progetto, riformare il processo e farlo durare 4-5 anni al massimo, e su questo vogliono lavorare, così ha detto Conte, così ha detto Bonafede. Quando costruisci una casa non parti dal caminetto, quando costruisci una casa parti dalle fondamenta, dal pavimento, dal bagno e dalla cucina, se poi vuoi fare il caminetto lo fai alla fine. Questi, nella riforma del processo che sta tenendo fermo mezzo paese in ostaggio milioni di italiani, sono partiti dalla fine, non dall'inizio, probabilmente perché non sono d'accordo neanche su questo, fra Renzi, Zingaretti, Di Maio, Speranza. È chiaro che se non sei d'accordo, sulle autostrade non sono d'accordo, e ci sono 13 miliardi di investimenti bloccati, e penso ai genovesi, alla Gronda, che è l'autostrada che toglierebbe i camion dal centro di Genova, 4 miliardi di investimenti fermi. Sull'autonomia non sono d'accordo e hanno rinviato, sul MES non sono d'accordo e hanno rinviato, è ferma ILVA, è ferma l'Italia, c'è la vicenda Embraco, c'è la vicenda Mercatone 1, sulla tassa sulla plastica hanno rinviato a luglio. Ma anche lì siete d'accordo voi e Italia Viva, quindi non è che non sono d'accordo loro, sulla plastic tax avete la stessa posizione di Italia Viva con di Renzi. Il problema è che noi siamo all'opposizione, il governo dovrebbe andare d'accordo, quando uno è all'opposizione può essere d'accordo su alcune cose o su altre. Sei al governo e non sei d'accordo, ecco, l'unico, io sono felice perché l'unico momento in cui li ho visti tutti d'accordo in aula è stato mercoledì per votare per il mio processo. Oh. Lì erano tutti d'accordo. Non è che l'Italia va avanti con i processi a Salvini. Salvini, adesso ci arriviamo a questa questione del processo, però dato che lei citava autostrade, mi viene in mente questo, che nell'esperienza precedente, quella del governo, il famoso governo giallo-verde, ci furono dei contrasti sulla questione della revoca tra voi e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è molto deciso nel volere la revoca della concessione ad autostrade e voi che oggettivamente avete frenato. Abbiamo visto nei giorni scorsi un cambio di passo, prima con un'intervista all'ex viceministro delle infrastrutture Rixi e poi con lei che ieri di fronte alla stampa estera ha detto noi siamo voteremmo a favore della revoca, nel caso ci fosse da votare, alla revoca della concessione per autostrade. Cosa è cambiato? No, noi chiedevamo allora e chiediamo adesso un documento legale. Se io ritengo che Radio 24 vada chiusa e uno mi dice chiudiamo Radio 24, io dico sì amico mio, chiudiamo Radio 24, perché me lo giustifichi se mi porti un documento, una prova in base alla quale Radio 24 è pericolosa e allora parliamo, altrimenti è solo aria fritta. Ci sono 43 morti, c'è una responsabilità evidentemente di qualcuno, qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare. E noi dicevamo sempre a Conte, a Di Maio, a Toninelli, perché le responsabilità erano loro, del Presidente del Consiglio, del Ministro dei Trasporti e del Ministro dell'Economia, non era del Ministro dell'Interno che si occupa di lotta alla mafia. Portateci un documento di appoggio, una perizia legale, una perizia tecnica, una perizia giuridica, che conferma che la responsabilità di questi 43 morti, di questo disastro è in capo alle autostrade, e noi revochiamo in 3 secondi la concessione. Non è mai arrivato nulla e fino ad agosto, diceva giustamente lei, perché, secondo i 5 Stelle, perché era colpa di Salvini. Perché Salvini, che non ha mai incontrato nella vita un Benetton, neanche per caso, all'autogrill, però era contrario. Adesso è passato settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e siamo a metà febbraio. Salvini non è più al governo, noi abbiamo chiesto portate in aula qualcosa. Se volete revocare, revochiamo. Se volete prorogare, proroghiamo. L'unica cosa che non potete fare è rinviare. No, perché da quel che avevo capito ieri, dalle sue parole, Salvini, è che in realtà voi foste a favore della revoca, punto. Cioè, invece adesso mi sta dicendo una cosa diversa. Mi sta dicendo una cosa diversa adesso. Sì. Per revocare in un paese civile occorre un parere legale. Non puoi revocare a occhio. È un po' quello che dice anche il ministro delle infrastrutture De Micheli. Per il coronavirus. Sono morti evidentemente perché qualcuno non ha fatto il suo lavoro. Ci portino un parere tecnico, giuridico, scientifico, legale che lo conferma, cosa che mi sembra sia ben chiara a tutti, e procediamo. Il problema per l'Italia è che questo governo non è che decida qualcosa, poi decide io sono d'accordo, voto a favore, non sono d'accordo, voto contro. Non decide, ed è la cosa peggiore per un'impresa, per una famiglia, per un negozio. Il non decidere, il non un decidere po' quello che sanità. È successo negli ultimi mesi del governo del quale faceva certo. parte anche lei. C'era il no alla TAV, il no alle Olimpiadi, il no alla Gronda, il no alla Pedemontana, il no all'aeroporto di Firenze. Era un no unico. Ma lei l'ha capito? Senta un po', Salvini, ma lei l'ha capito finalmente perché a fine agosto con una mossa sorpresa invece di andare ad elezioni hanno deciso di fare il Conte bis giornali, perché se andiamo a votare rischia di vincere Salvini, cioè l'hanno detto allora e l'hanno detto oggi sui giornali. C'è una parlamentare del PD, non mi ricordo il nome, che dice e qua non possiamo correre il rischio che in Italia vinca la Lega. Il rischio, quella Lega governa 13 regioni su 20, governa dalla Lombardia al Veneto, dalla Sicilia alla Calabria. Il rischio. Lei le elezioni pensa... in democrazia non dovrebbero essere un rischio. Lei pensa di correre il rischio invece che nei suoi confronti venga applicata la legge Severino? Perché il Senato ha deciso per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti. Dunque lei potrebbe correre il rischio che nei suoi confronti si applichi la legge Severino, che la sospenderebbe da ogni incarico, come è successo a suo tempo con Berlusconi. E a quel punto... Che succede? Se si va a elezioni, chi è il candidato premier della Lega? Dovrei essere condannato in 3 gradi di giudizio. Cioè dovrei in 3 diversi collegi giudicanti trovare dei giudici che dicono di aver sospeso per 4 giorni lo sbarco da una nave militare in attesa che 5 paesi europei della conferenza dei vescovi si dessero a disposizione per accogliere quegli immigrati, non è stato un atto fatto nell'interesse nazionale, ma è stato un sequestro di persona. 15 anni di carcere, più che uno stupratore, uno spacciatore. Siccome io credo nella giustizia, immagino che ci sia qualcuno in un'aula di tribunale che dica Salvini ha fatto il suo dovere e non è un criminale. Però ho messo in conto tutto. Quando uno lavora nella vita mette in conto fattori positivi e fattori negativi. Se mi condannano in 3 gradi di giudizio, vado in galera e non mi posso più candidare neanche alle elezioni condominiali. È una battaglia che faccio coscientemente perché ritengo di aver fatto il mio dovere. Salvini, abbiamo letto nelle scorse ore un po' di, diciamo, di tensioni, almeno apparentemente, con Fratelli d'Italia, con l'alleato Fratelli d'Italia, in merito alle candidature alle regionali, no? I nomi, a partire da Raffaele Fitto in Puglia. Conferma che Fitto sarà il candidato in Puglia oppure volete mettere mano anche a quello? No, ma confermo che stiamo cercando uomini e donne migliori per le regioni e per i comuni. Che possono avere una tessera di partito in tasca, ma possono quindi tutto si può mettere in discussione, tutto si può mettere in discussione degli accordi che avete preso con Fratelli d'Italia? Ma guardi, c'è una polemica che esiste solo sui giornali, noi ci vediamo regolarmente, ci sentiamo regolarmente, amministriamo 13 regioni su 20, abbiamo vinto le ultime 8 delle ultime 9 elezioni regionali, semplicemente visto che mancano mesi alle elezioni non solo in tante regioni ma anche in tanti comuni, perché voteranno in comuni importanti da Venezia a Reggio Calabria, da Matera ad Arezzo, stiamo scegliendo, e c'è tanta gente a disposizione per fortuna, le donne e gli uomini più in gamba e una squadra, perché non basta il candidato sindaco, il candidato governatore, occorre una squadra in campo, quindi arriveremo a una soluzione condivisa, il centrodestra assolutamente unito, tranquillo, compatto, però se c'è bisogno di una settimana in più per ascoltare una persona in più è assolutamente un investimento ben fatto. Una pausa. Mattino. Potrebbe anche spiegare agli elettori il cambiamento di idea sull'Europa e magari spiegarci come mai non sento magari più fortemente che si parla delle lotte all'autonomia differenziata come faceva una volta, altre cose. È un elettore un po' deluso questo, caro Salvini, sull'Europa, anche sull'intervista a Giorgetti che citavamo poco fa, sulle sue parole non vogliamo più uscire dall'euro, sui rapporti con l'Europa e sul tema dell'autonomia. Ma non era a Padova lunedì, c'erano 3.000 persone a Padova con Luca Zaia, c'era il rappresentante del turismo, c'era Cristian Ghedina per lo sport, c'erano rappresentanti dell'agricoltura, dell'università, dell'industria e delle imprese. L'autonomia è l'unico modo per governare in maniera efficiente questo paese e tenerlo unito da nord a sud. E in Veneto, ad esempio, chiunque si vorrà alleare con la Lega nelle sedi regionali che ci saranno in primavera deve firmare l'impegno ad approvare il trasferimento alla regione di tutte le competenze richieste da Luca Zaia. E fortunatamente anche tutte le regioni del sud ormai si sono rese conto che decidere tutto dal centro non funziona né per il Veneto né per la Calabria, né per la Lombardia né per la Puglia, e quindi coinvolgere di più i territori, responsabilizzare i territori è una battaglia della Lega. Siccome tornerò in Veneto tra 15 giorni, domani pomeriggio sarà prima a Milano, poi a Bergamo e domenica a Roma, se l'ascoltatore vorrà venire ci aiuterà in questa battaglia. Per quello che riguarda l'Europa, come per l'Italia, l'emergenza è la crescita e il lavoro. La moneta non è sicuramente una moneta che ha aiutato l'economia italiana, le imprese italiane, le famiglie italiane e la crescita europea, perché guarda caso, stando anche ai dati della stessa Commissione europea, i paesi che crescono di più sono paesi che hanno mantenuto il controllo sulla loro moneta nazionale, però uno cucina la minestra con gli ingredienti che ha, quindi noi stiamo lavorando a Bruxelles per far crescere l'Italia e l'Europa con le regole che ci sono state date. Salvini, però in Europa bisogna schierarsi. Allora le dico, tra Macron e Marine Le Pen, lei oggi, tra i due, a chi si sente più vicino? ma siamo alleati con Marine Le Pen. Sì, però potrebbe, no, però potrebbe anche, come dire, cominciare un processo di distacco e avvicinarsi ai conservatori e magari, appunto, attraverso i conservatori scegliere altre collocazioni. Sono lontano anni luce dalle politiche di Macron, che risponde alle logiche della finanza, dei poteri forti, che sta aumentando l'età per andare in pensione, che ha una crisi occupazionale in Francia che non si vede da tempo, quindi sicuramente non è un modello di sviluppo per il mio paese che vorrei per i miei figli. E tra il partito della signora Merkel e Alternative für Deutschland? Ma siamo alleati con lei, mi sta facendo una domanda, noi siamo alleati con gente che vuole cambiare alcune regole europee. No, non ne facciamo un mistero. Adesso io sono contento perché tutti dicono che bisogna cambiare alcune cose in Europa, mentre fino a un anno fa l'Europa andava bene così com'è. L'Europa è un bellissimo sogno che qualcuno ha rovinato, trasformandola in centro commerciale senza regole. Noi vorremmo ridare anima a questa Europa, rimettere al centro il lavoro, il commercio, l'agricoltura, la medicina, lo studio, le professioni, e lo dobbiamo fare con chi non la governa questa Europa. Con tutto rispetto per la signora Merkel e per il signor Macron, se siamo arrivati a questo è perché evidentemente chi ha governato l'Europa in questi decenni non ha fatto il suo. Mi scusi Salvini, visto che citava Macron su un tema, e ritorniamo un po' a bomba, ma cos'è questa passione per il tema dell'età pensionabile? Perché abbia pazienza, se cresce l'aspettativa di vita è inevitabile che a un certo punto l'età pensionabile debba crescere, ne va della sostenibilità dei conti, della sostenibilità economica del sistema pensionistico, insomma mi sembra che no, che anche riguarda, ovviamente il tema riguarda anche quota 100, poi fatta salva la questione che ha a che fare con i lavori usuranti e tutto quel che sappiamo, però il problema è dare un futuro ai giovani e un lavoro stabile ai giovani. I giovani oggi vivono o di precariato o di fuga all'estero, anche i migliori, e quindi o diamo opportunità di lavoro stabile, il lavoro stabile significa mutuo per la casa, sì, matrimonio, famiglia e figli, oppure fra 30 anni parliamo di un'Italia che non c'è più. Quindi mandare in pensione un uomo, una donna che è arrivato a 64, a 65, a 66 anni, dopo 40 anni di lavoro, non mi sembra un regalo. E quel posto di lavoro, ripeto, ad esempio nel pubblico impiego, pensiamo alla polizia. Io ho fatto ministro dell'interno. Nei prossimi 5 anni, lo dico agli ascoltatori perché poi alla polizia tutti si rivolgono, andranno in pensione più di 20.000 poliziotti, su 90.000. È chiaro che o ne assumo tanti adesso con un ricambio generazionale, perché inseguire un facciatore a 60 anni è diverso che non inseguirlo a 20 anni. O i giovani li facciamo entrare nel mondo del lavoro, ma con due piedi, non con un contratto alla Coop di un mese, rinnovabile forse di un altro mese. Mi scusi, quindi l'unico motivo per, come dire, l'abbassamento dell'età pensionabile è il ricambio tra vecchia generazione e nuova generazione, sì, che però nei numeri è tutto da dimostrare. La politica europea, non è che in Italia si vada in pensione, il disastro sono le baby pensioni. Io non so chi decenni fa inventò le baby pensioni, che dopo 18 anni va in pensione. Beh, all'epoca l'hanno inventati i governi di 40 anni fa, mi pare che ci fosse all'epoca la Democrazia Cristiana. Però Salvini, il problema è dopo 40 anni mi scusi, ma le aziende assumono se c'è lavoro. Certo. Se mandano in pensione con quota 100, ma non sostituiscono perché non c'è domanda, non c'è la possibilità di fare quell'assunzione. Allora forse prima bisogna cercare di far crescere la produttività, e poi si possono fare anche le assunzioni. Meno burocrazia, meno tasse significa più lavoro. Altri miracoli in Europa non ne fanno. Se tagli la burocrazia, che è la tassa occulta più pesante, un pescatore che esce a Rimini a fare pesca a strascico deve compilare 19 registri. Questa non è una tassa, ma è una follia. Tagli un po' di burocrazia e abbassi le pretese fiscali, l'Italia è il paese dove tutti verrebbero a investire. Però, ripeto, qualcuno crede che il governo attualmente in carica, PD, 5 Stelle, LeU, Renzi, responsabili, gruppi misti, possa fare una rivoluzione fiscale del genere. Ma quanto sapete è vero, che è... però, mi scusi, lei ha citati tutti, però non ci ha detto ancora una parola chiara sul fatto che l'interesse di Italia Viva coincida con il suo. C'è questo accordo sotterraneo, magari vi parlate attraverso terzi, ma c'è tra voi sì o no? Ma no, perché ci deve essere un accordo sotterraneo? Mi scusi, se al governo litigano... Perché avete un nemico comune che è Giuseppe Conte, che non piace a Renzi e non piace neanche a lei. Ma guardi, non ho nemici nella vita, la vita è così bella e così breve che passare il tempo a farsi il fegato marcio per il signor Conte non fa per me. Il problema è che l'Italia si sta spegnendo, che le aziende stanno chiudendo, i negozi stanno chiudendo, i giovani stanno scappando. Se fosse, ripeto, un governo lontanissimo da me, ma serio, coerente, con le idee chiare, che fa delle riforme, io le contesto se non sono d'accordo, ma almeno fanno qualcosa per l'Italia. E poi la storia dirà se hanno fatto bene o hanno fatto male. Il dramma di questo governo è che, siccome è diviso su tutto, non fa nulla, quindi il mio nemico non è Conte, il mio nemico è chi sta spegnendo l'Italia, siamo ultimi per crescita, ci sta superando il Portogallo, la Lituania, l'Estonia, con tutto il rispetto per la Grecia. Come facciamo a crescere meno della Grecia? Siamo la seconda potenza industriale di questo continente. Cresceva poco anche con lei al governo, però. No, ma un governo omogeneo di centrodestra, con alcune idee chiare sulla burocrazia, sulla pace fiscale da estendere alle famiglie, alle società, alle imprese, per chi ha degli arretrati con Equitalia. Voi sapete che in comune a Roma sono ferme 235.000 pratiche edilizie che risalgono anche a 30 anni fa per i condoni. Sì. Come fa un paese come l'Italia ad avere in un solo comune 235.000 pratiche edilizie ferme? Quello è lavoro, quelli sono muratori, sono artigiani. Siamo in chiusura. Salvini, a proposito di fegato marcio che citava prima, c'era il rigore per la Juve o no? No, non c'era. No. Sono tifoso, ovviamente. E a proposito di Roma, il suo candidato chi è? Claudio Durigon? No, guardi, io sarò al Campidoglio, pomeriggio alle 16:30. L'importante è che dopo Marino e dopo la Raggi ci sia una squadra all'altezza in comune a Roma. Io delle idee ce le ho, però per rispetto, siccome siamo una squadra, siamo una famiglia, siamo un'alleanza, non le vengo a portare in diretta su Radio 24 prima di averle condivise, però siamo pronti. Per Roma e per Milano siamo pronti. Grazie Matteo Salvini, leader della Lega. Buona giornata, buon fine settimana e buon fine settimana anche ai nostri ascoltatori. Cara Maria, ciao, ci risentiamo a tutti, a lunedì allora. Lunedì alle 8:20, per quanto ci riguarda ci risentiamo alle 6:30 di lunedì mattina. Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori, Filippo Aureggi in regia. A lunedì. Ciao.